migliori riserva la scaletta. quella lavatrice, come la chiama lui. No, già stavo nel banco bene. Ma sta lavorando? Non lo so. È vero, forse sta lavorando, non ha detto che era in fece. Non ha detto niente. Evidentemente è al lavoro. Vabbè. Già ci sente intanto. Se accende la radio già ci accoppia, non c'è problema. E quindi stavo dicendo, ma questa cornice interna, ma praticamente il bordo finito della pavimentazione ha voluto una cornice così. In pratica il pavimento, cioè vedete, pavimento normale, era finito, ha voluto questa cornice. Siccome l'ha mandato mio compare a comprarsi delle stecche, siccome non rientravamo con le misure del pavimento, che sono 20x20, rimaneva lo spazio mettendo la sfida in pesce, rimaneva questo spazio di un paio di millimetri, ma di 2 centimetri, ed era brutto vedersi così, capito, rientrare e mettere tutto la sfida in pesce e poi ti rimanevano questi 2 centimetri di angolini, diciamo. E allora ha consigliato a mio padre di prendersi dalle stecche, delle stecche già pronte, che si mettono in giro la cornice, no? che deve fare, no? Capito? Perché i mattoni sono messi normali, però all'interno di questa cornice sono messi la spina di pesce, capito? Siccome le misure non erano le sue, gli ha consigliato per queste cornici, è andato e non le ha trovato. Allora, siccome noi abbiamo dei vetrini che sono, come posso dirti, 4 cm per 4, sono vetrini che faccio vedere domani se ci pigliamo la caffeina, e li mettiamo intorno al tavolo, però lo devo comprendere, perché noi abbiamo già fatto un rivestimento di un vetro, e cioè sono rimasti ben pochi di quei vetrini lì, capite? Metti quei vetrini lì e acquisti quei pochi centimetri che ci sono differenza, capito? Per farlo di pavimento. È tutto qua. Non li ha trovati, magari li ha trovati e lo spessore è molto più grosso, non fa, una volta di fare il massetto, mica puoi togliere il massetto o abbassare il massetto per mettere la cornice, non ha senso, capito? Se si era trovato magari degli stessi centimetri del mattone andava più bene, ma siccome la differenza è troppo non va bene, capito? Aggiunga vita in tu. Sì, sono quelle stecchette che si mettono quando ci va il vetro incasato al muro nei bagni. Quelle stecchette perché quello di Via Pasqua è fatto così. È fatto tutto così a triangolini con le stecchettine sempre in. Non so che materiale è quello, non è marmo, granito, è mattoni, usa cioè. No, è ceramica, capito? Ceramica. No, perché io lì non ho seguito niente. Lì c'era l'impresa che ha fatto tutto. Io ce l'avevo ogni tanto a vedere, ma poi le porte, tutte le altre cose le ha fatte fare. Ha fatto così lo stesso, cassato al muro e poi c'ha queste stecchette in ceramica, come dici tu, sul rossiccio, là. Lui è bello, è stato un patrimonio quel bagno, cazzo, ma c'è una centralina, c'è tutta la centralina comandata praticamente, che comanda tutto l'impianto idrico. Sì, e infatti anche noi abbiamo fatto l'idrato, abbiamo fatto mettere la centralina che comanda sicuramente tutti i rubinetti, no? Capito? C'è l'acqua fredda e l'acqua calda, e da lì dalla centralina comandi tutto, c'è una perdita per dire al water o diciamo alla borsa di al rubinetto del PD, li chiudi dalla centralina e tutto questo dell'acqua puoi utilizzare, capito? è chiaro. Prima era lì un casino, per 12 lunghi di piombo, di grosso, no, sono fatti bene. Non ci vuole così, non quello che stai facendo tu, per fare un bagno orientativamente, smantellarlo, voglio rendermi conto di quello che ho speso, smantellarlo, compresi sanitari, placcaggio, pavimento, centralina, tutto, da zero. E dipende come se hai, e dipende anche quanto è grande questo bagno. Più o meno quanto è questo? Sono 3 metri per 2. Per 2? Per 2 sono 4.000 euro, dai. 3.500 euro, 4.000. Però non sono andato così male. Non sono andato così male, vabbè. Ho preso i sanitari e vasca, mi dei lavandino di quello. Con l'armadio sotto, l'armadietto sotto, il retroincasso, tutto sono fatto bene. Poi la centralina, beh, quella è stata fatta a parte, perché poi ho voluto l'attacco della lavatrice sempre in bagno. Tutto il corso allo bagno, così il corso allo bagno nuovo, tutto, se non ricordo, sera 3-2. 300, comunque poco più di 3.000, va? No, più o meno già trattato bene. Ti ha trattato bene, perché se trova che il bagno è la grandezza del bagno, insomma, da 5.000, 6.000, 7.000 euro, dipende sempre di cosa, insomma, dove è composto, capito, il bagno. Stai sapendo che è più di 3 metri, è più di 3 metri lungo. Quindi, ma se non mi ricordo, fatto ormai ho preso a fare i controfissi, sono tutte le finestre esterne, la porta finestra del poggiolo che c'è dall'altra parte, tutti in PVC bianco, con i vetri anche sfondamento, quindi e quando chiudevi tutto sembrava blindato, cazzo, non si sentiva manco la mosca volare, la volta d'inverno. Bisogna la parola, sto piovendo, sta, non si sentiva niente, mentre qua invece si sente l'acqua. Vabbè che grazie, è molto più in alto, però si sente non nelle finestre, ma a battere, cioè, negli alberi, nelle cose, si sente, invece di niente, nulla. Infatti qua non ne ho di controfissi, sono solo per le zanzariere, non mi sembra poco. In questa finestra, in quella che aveva letto mia, con la mia figlia, e nella porta finestra del salone, e nella finestra del salone. Cosa lì ho dovuto fare, perché stavano in viaggio d'aria, e quando tieni tutto aperto, ci viene a casa di mocha, soprattutto d'estate, invece vuoi girare l'aria, non ci sono i setti, non c'è niente, si sta benissimo, guarda, benissimo. Ma lì è stato un patrimonio, cazzo, la porta finestra, con la zanzariera, anche io l'ho fatto la zanzariera, con la zanzariera scorrevole, quella della camera di mia figlia, di mia Pascoli, mi è costata quasi 600 euro, anzi quasi 600 euro. I siciliani sono cari come prezzo, però sono anche indispensabili, perché non chiedono i siti, zanzare, mosche, come ne avete. Allora le zanzariere sono utili, che caspita, non sono bene. Ma perché costa molto il PVC rispetto all'alluminio, deve essere? Sì, beh, in effetti il PVC costa molto di più perché non la rigiunisce, non ha niente, capito? L'alluminio invece con l'andare del tempo si corrode, si fa e maceta. Tutte le maniglie e tutto il sistema di apertura, perché sia la porta finestra a due ante e sia le finestre hanno tutte all'apertura normale più masculante. Infatti lasciamo sempre così quando non ce l'avamo. trascuranti, entrava l'aria e girava l'aria anche lì. Molto più calda rispetto a questa, questa è molto più fresca, è molto più grande. Molto più grande. Quella lì però era abbastanza fresca. E d'inverno non era neanche fredda, il condizionatore con quei calori accendevo quella grande del salone. Solo la sera sul tardi, quando stavamo lì a guardare la TV e basta. Mentre quella delle camere da letto con quei calori proprio era difficile. Se c'era freddo mi doveva chissà della montagna, una fea, allora va bene. Ma non ho problemi perché c'è il riscaldamento. Quindi pompe di calore, niente. Ma metterò il prossimo anno nel salone, ma solo a freddo la userò, solo per l'estate e basta. Per il resto non pongo nulla, niente, tanto sono cazzo rottura di palle, ne abbatte nulla di lui, ma le via anch'io, mamma mia. Vediamo, nonostante che dicono che si risparmiano queste pompe di calore, non sa che sono tutte barzellette. Se risparmia, tu se risparmia. C'avevo due inverter da 9.000, anzi tre. Non vale. Allora uno da 9, una da 12 nel salone e due da 9 nelle camere da letto. Non ho risparmiato un par di palle, perché mi arrivavano in base di luce ogni due mesi, 300, 320, 290, 340. Quindi non risparmio assolutamente niente. Però, cazzo, se ti devi riscaldare, la camera è freddo, se non ci riscaldare tutto in quel parco non ce l'ha nessuno riscaldamento. Sono tutti con le pompe di calore, tutti. Perché quando è stato costruito non gli hanno dato l'autorizzazione per mettere la caldaia. Non c'era il posto, c'era l'attività commerciale sotto, quindi il giardino condominiale, e perciò non c'è stato l'autorizzazione. E quindi sono andati tutti con le pompe di calore. Capito? Ma ora che ci ha durato 40 anni fa c'è palazzo, quindi non è che si possa pretendere più di tanto. Beh, essendo fatto 40 anni fa non si può pretendere, no? Allora le pompe si riesce un po' a risolvere sempre il petto avendo dei balconi con vetro cane o questa roba qua, perché non c'è avere questi balconi con un vetro da 5 mm che senso ha, cioè il calore non viene subito, capito? No, se hai delle belle finestre con vetro cane, hai cose, sì, guarda che c'è bene. Capito, ma se c'è dispersione è un casino, se c'è dispersione consuma che come infatti quindi si accendeva pochissimo e teneva bene il calore, la temperatura, perché dispersione non ce n'era, quindi anche d'inverno non è che grandi piumoni e palle varie. Piumoni leggeri, tranquilli, va bene. No, qua mi ricordo anni fa, quando tirava quel vento freddo, mi scava la maletta, sempre la maletta, ma questa è la caldaia qui. Rimane, praticamente all'inverno questo rimane sia di mattina che di sera acceso. Non è che devi pagare niente, perché paghi tutto quello col condominio qui. Tutto quel condominio si paga qua. Io va bene. Stavo dicendo, mi stava chiedendo mia figlia, ma perché la massaggio è molto costa per cento? Non lo so. Per ora è una cosa bellissima, bestiale, perché discute l'acqua dappertutto, al basso, laterale, è una cosa omicidiale, c'è un motorino. Però diciamo che l'idraulico, come tu dici, è un grosso consumo di acqua.